Allora iniziamo questa serata. Do il benvenuto come Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, sono Valeria Trevisan, qui con me c'è Monica Marcon, ci sono Camilla Larcher, Lara Graber, insomma siamo un gruppo di bibliotecarie che da tempo si occupano di iniziative. La domanda che sorge è questa: perché presentare un libro ogni settimana? Ecco. Perché è una straordinaria occasione che la biblioteca può costruire insieme alle persone, quindi si tratta di una co-creazione, di momenti particolari dove le persone si incontrano e il libro diventa un veicolo di idee, di emozioni e di sentimenti. Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta dell'autrice, che è qui con noi questa sera, e ringrazio, Luisa Pesarin. Come vedete accompagnata, poi vi presenterò anche le altre signore. È una straordinaria occasione anche questa per noi per rinforzare una volta in più e comunicare, condividere con il pubblico anche i valori, perché la biblioteca non è solo un contenitore di libri sugli scaffali, ma è un po' una mediatrice di valori. Che soprattutto in questo periodo dove c'è anche il compito di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, ci sentiamo particolarmente coinvolti come biblioteche, coinvolte nel favorire, nell'aiutare a condividere, ma soprattutto a diffondere le buone pratiche per raggiungere questi obiettivi. E tra questi c'è anche quello del rispetto, lo declino così, con un termine diverso forse per non entrare nei tecnicismi. Quello del rispetto, della valorizzazione di certe relazioni e soprattutto anche di una parità tra uomo e donna, ma soprattutto anche dell'inclusione e quello di superare tanti limiti, tanti confini che ci siamo imposti nel tempo e che forse potremmo anche superare. Quindi io adesso non mi dilungo più, però avevo promesso alle nostre ospiti che qui vi illustro di nuovo. Allora abbiamo Maria Pia Zanetti, voce nota nel nostro territorio e non solo, che presterà appunto la sua voce nel dare vita ad alcuni passaggi del libro che, come vedete qui nella slide, si intitola L'ombra del silenzio. Abbiamo con noi come ospite appunto l'autrice Luisa Pesarin. La moderazione questa sera la curerà Mercedes Bardi, che ringrazio, e poi abbiamo anche un intervento di Marina Mercati, che siamo tutti molto curiosi e soprattutto in attesa di conoscere, ecco, anche il suo intervento. Bene, avevo chiesto, e di solito lo faccio, insomma, quello di cogliere questa splendida occasione di vedere anche dei volti nuovi per raccontare anche quelli che saranno gli appuntamenti successivi di questa biblioteca. Domani incontreremo Freddy Longo, un medico meranese che ha girato tutto il mondo, ha conosciuto Gina Lollobrigida, insomma, dei personaggi anche del mondo dello spettacolo, ma che ci porterà la sua testimonianza anche con questo aspetto particolare come medico, e come non tanto che ci racconterà le patologie, però ha questa visione del mondo in una maniera anche molto artistica e delicata. Sarà accompagnato da Marco Bernardi e dall'attrice Alessandra Limetti, che anche in questo caso darà voce ad alcuni passaggi del suo libro intitolato Binari interrotti, domani sera alle 17:30. La settimana successiva avremo il gruppo di lettura con la presentazione del libro Il carosello delle anime di Lorenzo Ferrarese. Il gruppo di lettura è un modo, diciamo, meno frontale e più partecipato della presentazione di un libro, perché si legge prima e poi se ne discute insieme. Ecco, sono due modalità diverse che troviamo, insomma, che proviamo a sperimentare, ma che funzionano. E poi concludiamo la nostra stagione con Una settimana di luglio. È il titolo di un libro di Gianluca Battistel, questo sarà invece il 10 di giugno. L'ultima cosa che vi dico è che le nostre iniziative vengono tutte registrate e sono riascoltabili sul nostro sito della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta alla voce podcast, e quindi anche questa serata a breve sarà ascoltabile e riascoltabile, insomma, per chi non è riuscito a partecipare. Bene, grazie, grazie alle nostre ospiti, grazie di questa bella occasione, vi auguro una buona serata a tutti e un arrivederci, a presto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla presentazione del romanzo L'ombra del silenzio di Luisa Pesarin. Oggi vivremo un viaggio fatto di parole, emozioni e riflessioni. Questo libro tocca corde profonde, ci parla di violenza psicologica, di manipolazione, ma anche di resilienza e speranza. Avremo modo di ascoltare l'autrice, alcuni estratti interpretati dall'attrice Maria Pia Zanetti e un'esibizione dalla cantante Marina Mercati. Nel cuore di Bolzano si nasconde un'ombra oscura che spezza i fragili legami di una famiglia. Elena, una madre guidata da un amore indomabile per sua figlia Maria Elena, si ritrova intrappolata in una battaglia angosciante contro il tradimento, la manipolazione e un sistema corrotto che si nutre delle sofferenze degli innocenti. Quando la figlia Maria Elena, manipolata da suo padre, accusa la madre di essere instabile, la vita di Elena si stregola, privata di sua figlia e dipinta come una figura inaffidabile da una società cieca alla verità, Elena, la protagonista, intraprende una lotta instancabile per smascherare le falle delle istituzioni che dovrebbero proteggere le famiglie. Ora ascolteremo dalla voce della bravissima attrice Maria Pia Zanetti un primo estratto molto toccante del romanzo in cui Elena affronta un momento cruciale, la scoperta del tradimento e dei comportamenti abusanti del marito e la decisione di lottare per difendere sua figlia. La lettura sarà accompagnata dal brano Gocce di memoria di Giorgia in versione strumentale. Quella sera la cucina era immersa in una luce fioca. La lampada sopra il tavolo proiettava un'ombra tremula sulle pareti. Elena fissava il marito con uno sguardo che alternava dolore e incredulità. Di fronte a lei lui si agitava, muovendo nervosamente le mani ed evitando il suo sguardo. «Parlami», disse Elena con un tono basso ma tagliente. Le sue dita stringevano il bordo della sedia come se cercassero un ancoraggio nella tempesta emotiva che la scuoteva. «Come hai potuto? Come hai potuto fare una cosa simile?» Il silenzio che seguì era assordante. Lui sollevò lo sguardo, gli occhi lucidi, ma non riuscì a trovare le parole. «Non sai!» lo interruppe Elena alzandosi di scatto. La sua voce, seppur incrinata dal dolore, si fece più ferma. «Maria Elena è nostra figlia, la nostra bambina. Come hai potuto tradire la sua fiducia, la mia fiducia, in questo modo?» «Non Non volevo farle del male. È stato un errore, un momento di debolezza, balbettò. Debolezza, ripeté Elena con un tono quasi incredulo. Quello che hai fatto non è debolezza, è una scelta. E quelle scelte distruggono vite. Elena si voltò verso la finestra, osservando la città fuori. Bolzano, con le sue luci sparse come stelle tra le montagne, sembrava un'altra realtà rispetto al caos che le si agitava dentro. Più tardi Elena uscì dall'appartamento. Camminò senza una meta precisa, l'aria fresca della sera le accarezzava il viso. Piazza Walter era silenziosa. La statua centrale sembrava scrutarla con sguardo immobile. No, non posso ignorare tutto questo, mormorò. Devo proteggere Maria Elena, anche se significherà perdere tutto. Tornata a casa, trovò Maria Elena addormentata, le si avvicinò, il cuore stretto in una morsa. Non ti deluderò mai più. Elena chiuse la porta. Era solo l'inizio della battaglia, ma la scelta era fatta. Grazie per queste emozioni. E adesso ascolteremo un secondo estratto. La protagonista in questo caso è la giovane Maria Elena, ormai ventenne, che comincia a dubitare delle menzogne ricevute e sente riemergere i ricordi legati alla madre. Questa lettura sarà accompagnata dal brano Di sole ed azzurro di Giorgia in versione strumentale. Maria Elena aveva da poco compiuto 20 anni. Viveva ancora con il padre, che per lei era stato una figura confusa, una mescolanza di protezione apparente e manipolazione sottile. I ricordi di sua madre continuavano a riaffiorare nei momenti più inaspettati. L'immagine di lei che preparava il tè, che la stringeva forte quando era bambina. Ma quei ricordi venivano soffocati da altre immagini più oscure, costruite dalle parole del padre, accuse, bugie, manipolazioni. Maria Elena, sei fortunata che io ci sia stato. Tua madre ti avrebbe distrutta. Si svegliava ogni mattina con il cuore pesante. Ogni oggetto intorno a lei era impregnato di ricordi. La lavanda, il rosa delle pareti, i disegni sbiaditi. Il padre era stato il suo eroe, ma col tempo era diventato la sua paura più grande. Dentro di lei, ogni giorno, si combatteva una battaglia, lottava per separare i ricordi felici da quelli dolorosi. Le notti erano i momenti peggiori. Si rannicchiava sotto le coperte, cercando di proteggersi da un terrore invisibile. Sua madre lo aveva capito, aveva cercato di salvarla, ma era stata allontanata, condannata da un sistema cieco. Elena aveva detto: Maria Elena, ti prego, guardami. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Ma Maria Elena non si era voltata. Troppa paura per affrontare la verità. Anni dopo, Maria Elena scrisse nel suo diario: un giorno ti ritroverò, un giorno spezzerò questo silenzio. Era una luce fragile, ma abbastanza forte da spezzare l'oscurità. Una promessa di cambiamento, una promessa d'amore. Adesso da queste emozioni forti... Se ce la faccio. Devo. Adesso è il momento di fare delle domande alla protagonista di questo libro, che è l'autrice Luisa Pesarin. La prima domanda è facile, dai, ce la fai. Grazie, ma sì, ce la posso fare. Fate il tifo per me, per favore, la prima volta. Non so se reggo, però c'è mia mamma coi fazzoletti, semmai. Allora, la prima domanda è: come è nato questo romanzo? È nato da una sorta di urgenza personale, perché sentivo la necessità di raccontare proprio da dentro tutto quello che tante persone, troppe persone vivono. E anche se questo romanzo è frutto di un'invenzione letteraria, chi mi conosce sa che molte di queste emozioni che vengono descritte nel libro, queste ingiustizie, queste dinamiche narrate, non sono del tutto inventate. Ma non è importante sapere se è tutto vero, ma è importante sentire che è vero, perché chi vive certe situazioni poi riconosce immediatamente la verità, anche dietro una finzione letteraria. Se parliamo adesso della protagonista del romanzo, di Elena, come è stato costruito questo personaggio, Elena? Elena è una voce che grida quando tutti le impongono il silenzio. È una mamma che ha perso tutto, o quasi tutto, ma che continua a combattere per amore. L'ho costruita partendo da dentro, da emozioni vissute, viste, respirate. È una donna che non cerca di apparire forte, ma lo è suo malgrado. È fragile, ma proprio per questo è incrollabile. Come si sviluppa il percorso di Maria Elena, che è la figlia di Elena, che anche lei è una protagonista in questo romanzo? Sì. Maria Elena rappresenta tutti quei figli e quelle figlie che crescendo si trovano a dover rimettere in discussione delle verità che sono state raccontate a loro. E il suo è un percorso difficile, forse direi il più difficile, perché è giovane, è fatto di solitudine, dubbi e di un lento riappropriarsi della memoria. Lei in realtà non si ribella subito, ma osserva per tantissimo tempo, poi sente, scrive e alla fine trova la sua voce. È un cammino lungo, simile a quello che tanti anche qui tra noi stanno ancora percorrendo. Un'altra domanda, perché hai scelto di ambientare il romanzo proprio a Bolzano, nella tua città? Non vorrei peccare di presunzione, però mi sono ispirata a quello che hanno fatto i grandi scrittori come James Joyce o Alfred Döblin, e ho scelto un luogo. Joyce ha scelto Dublino, Döblin ha scelto Berlino, Alexanderplatz, per raccontare qualcosa che ha un valore simbolico. Quindi Bolzano è una città apparentemente ordinata, silenziosa, ma è anche una città piena di contrasti. E questa vicenda si nutre di questo contesto, e inoltre, poiché è una città che vivo, che amo e che conosco bene, il tutto poteva dare credibilità e concretezza a questa narrazione. Qual è la lezione più importante che volevi trasmettere ai tuoi lettori? È che la verità ha una voce tutta sua, e se anche questa voce viene soffocata, e anche se la giustizia tarda ad arrivare o anche non arriva, c'è sempre un punto in cui qualcosa si rompe e da lì inizia comunque un cambiamento. E quindi questo romanzo si conclude con una nota di speranza, perché nei libri possiamo permetterci anche un lieto fine, ma nella realtà quella speranza per molte persone è ancora un cammino. Ma è proprio questo che voglio lasciare ai lettori, una direzione verso la quale guardare. Riprenderemo di nuovo l'intervista dopo l'intervento musicale che ci vi presento adesso. Da questo momento molto importante del libro è arrivato il momento della musica. Con una voce che sa toccare l'anima, vi presentiamo la cantante Marina Mercatin. Marina interpreterà il brano Quelle che le donne non dicono, un omaggio alla forza silenziosa delle donne e ciò che spesso resta inespresso ma che risuona potente. Un inno alla resilienza, alla voce interiore, alla dignità. Ho chiesto il permesso. Chi la sa può canticchiare insieme a noi. Piano però, perché Marina è bravissima, quindi canticchiamola. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine, tornano ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po', è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare, ancora con noi siamo così. Dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare, perché andate a amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Grazie per questi momenti carichi di emozione. Ora vorrei rivolgere ancora qualche domanda a Luisa e poi dare la parola a voi, al pubblico, per eventuali interventi o curiosità. Allora, prima di salutarci, Luisa, una domanda sui tuoi prossimi passi. Dopo sì. L'ombra del silenzio, stai già lavorando a nuovi progetti? Oh no, sono sempre in movimento. Mi fermeranno se mi sparano. Comunque sì, sto portando avanti diversi progetti perché ritengo che siano un'evoluzione naturale del mio percorso. E proprio in questi giorni è stato pubblicato un nuovo libro che si intitola Ferite nascoste, diario di un mondo che non ascolta. Si tratta di un diario scritto da una donna di cui scopriremo l'identità alla fine, non vi voglio rivelare molto, ma è un diario di episodi che sono capitati e capitano a donne di ogni provenienza, quindi sia dal punto di vista geografico, dal punto di vista sociale, culturale. Quindi quello che in questo diario si fa strada è che questo fenomeno dell'abuso è un qualche cosa che non guarda in faccia a nessuno, non guarda in faccia ai ceti sociali, non guarda in faccia alla nazionalità, non guarda in faccia ai luoghi, e questo è un qualche cosa che ci deve fare riflettere, perché io ho pensato una cosa, il raffreddore, prendiamo la malattia, viene a tutti, cioè può capitare a noi che abitiamo qui, può succedere, è successo in Cina, non andiamo a rivangare brutti ricordi. Dovunque, cioè il raffreddore è una malattia. Questa dinamica è una mia considerazione, potrebbe essere considerata come una malattia, quindi da curare come una malattia. E non solo perché c'è il contesto, la dinamica psicologica, eccetera, eccetera, non c'entra la cultura. E tra l'altro io sono anche abbastanza convinta che curando questi aspetti delle relazioni si potrebbero prevenire tantissime tragedie, delitti, stragi familiari, questi che chiamiamo femminicidi. Comunque io non voglio essere né femminista né maschilista, sono tragedie che capitano nella società, tra le persone, anche questi ragazzi che sono così violenti, che queste risse, queste cose che succedono adesso ormai ogni settimana si sente questi ragazzi giovani che per un nulla si prendono a coltellate. Quindi sono le relazioni, sono i rapporti che sono malati e forse vanno presi in considerazione in maniera diversa, non nel contesto sociale, ma proprio come come una malattia. Sì, e poi c'è un altro tassello, che è questa invece è la mia parte professionale. Recentemente sono diventata practitioner certificata di AIDS Awareness, che è un metodo che aiuta sia le persone che le persone anche all'interno delle aziende a ritrovare consapevolezza, equilibrio. E su questa piattaforma che si chiama Colors That Matter, che vuol dire colori che contano, si riesco a unire un po' questo mio lavoro di scrittura, di cercare di svegliare un po' le coscienze e anche di lavorare sulla consapevolezza. Quindi è un modo, come tanti altri, insomma, di trasformare la sofferenza in quella che è un'opportunità di crescita. Un bellissimo messaggio, ferite nascoste che diventano colori che contano. Che contano. Grazie Luisa. Adesso vi do la parola al pubblico, se hanno delle domande possiamo portare il microfono. Allora, ecco una domanda. Ho letto con grande interesse il tuo romanzo e devo dire che i capitoli che mi sono piaciuti di più sono proprio gli ultimi, dove si percepisce un'intensità di emozioni straordinarie. E il sacrificio e l'amore che emerge sono così potenti e commoventi. Come hai vissuto tu personalmente la scrittura di questi capitoli così pieni di speranza e riscatto? Non è stato facile, perché scriverli è stato come aprire una finestra dopo tanto buio. E ho dovuto attraversare di nuovo tutto il dolore per arrivare lì, ma è stato anche liberatorio, perché quelle pagine sono un respiro, una promessa, e ogni parola è nata da una ferita, ma anche dalla certezza che alla fine il bene trova sempre il modo per farsi strada, anche se nella vita vera il lieto fine a volte si fa aspettare. Grazie. Prego. Io invece volevo sapere, visto il contesto in cui è stato scritto il libro, che comunque è ambientato a Bolzano, se aveva accarezzato l'idea comunque di magari tradurlo in lingua tedesca, e visto che il tema è così universale, comunque anche il mondo tedesco avrebbe potuto apprezzare la lettura del libro. Sì, ho pensato più volte a fare questo, perché Bolzano di per sé è un crocevia culturale e linguistico, e questa storia così radicata nel territorio, ma è così universale, ritornando al discorso che ho fatto prima, e meriterebbe di parlare anche a lettori di lingua tedesca, germanofoni, diciamo così, perché io credo che sì, il dolore, la speranza, il bisogno di giustizia non hanno confini linguistici, e quindi anche la forza di una mamma che lotta anche contro l'impossibile può toccare chiunque, in qualunque lingua, non solo in tedesco. Scusate se ho detto solo, non voglio sminuire la nostra seconda lingua del territorio. Io non ho letto il libro, però avrei una domanda che è un po' una riflessione. Da quello che ho capito si parla in parte, o insomma, si parla di violenza psicologica, no? Sì. Che è una delle forme di violenza più difficili da riconoscere, sia per chi la vive sia all'esterno, dalle istituzioni. E mi chiedevo se si poteva un po', insomma, parlare di come la scrittura può aiutare non solo mi pare come ha aiutato lei, che è una scrittrice, ma come può aiutare chiunque, qualsiasi donna che si trova in una situazione di violenza, a prendere consapevolezza, no? di quello che sta vivendo, perché a volte c'è tanta confusione nella testa, no? Infatti, la confusione è proprio la prima vittoria della persona abusante, che mette in dubbio tutto quello che è la personalità della chiamiamola vittima. E se mi posso permettere, qui non parliamo né di donne né di uomini, perché sono fenomeni che succedono sia uomini verso donne, ma anche donne verso uomini, quindi non vuole essere un discorso di genere. E purtroppo è vero, come dice lei, che la persona è confusa, e la scrittura può aiutare, scrivere un diario, ad esempio, dove poi si rileggono le dinamiche che sono capitate nella giornata e si dice: ma questa cosa qui, magari è successa la stessa cosa con la stessa dinamica l'altro ieri, ma è un sistema che non funziona. Quindi la persona, scrivendo, mette nero su bianco quello che sta vivendo, perché il manipolatore o la manipolatrice, assolutamente, fanno in modo da confondere la mente della persona che viene abusata, in questo senso. Grazie. Grazie a lei. Penso che le domande sono finite. Grazie a tutti per le domande, bellissime domande. E adesso siamo giunti alla conclusione di questo evento. Io vorrei ringraziare Luisa Pisarin per la sua autenticità, Maria Pia Zanetti per la lettura intensa, Marina Mercatini per la sua musica d'anima, e ringrazio tutti voi che siete stati qui presenti. Non so, adesso dobbiamo distribuire, dobbiamo, sì, la stenda dei libri. Dovrebbe essere qualcuno della libreria Cappelli per firmare le copie, non ho visto. Sono, sì, di là? Ci dovrebbero essere qui, se qualcuno ha interesse per il libro, vi posso fare anche... Ora possiamo avvicinarsi. Ma anche... prima di tutto questo, a conclusione, ho una persona, una mia cara amica, che ci abbiamo chiesto, no? Portaci delle rose, nuove cose. Sergio. Ho detto una persona amica. Cosa devo dire? Sono una scrittrice, non posso dire una persona amico. Mi tolgono dall'associazione scrittori. Italo. Mi cancellano. Ecco. Che bello. Maria Pia. Ecco, poi andiamo. Grazie mille. Grazie. Gentile. Grazie. Grazie. Grazie.